TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Da stamattina una persona è interrogata in questura a Pordenone in relazione all'uccisione dell'imprenditore Mario Ruoso. Al momento non risultano provvedimenti nei suoi confronti. Secondo quanto filtra dagli ambienti investigativi, l'uomo sospettato di essere l'omicida del patron di Tele Pordenone sarebbe un 68enne, storico collaboratore dello stesso Ruoso. La guerra in Medio Oriente e gli echi lontani del conflitto entrano intanto nella nostra quotidianità sotto forma di rincari. La guerra nel Golfo Persico condiziona le forniture di petrolio greggio, ma i rincari sono già segnalati ai distributori di carburante e aumenti di prezzi vengono già riscontrati addirittura nel settore dei generi alimentari. E proprio nel mezzo della guerra in Medio Oriente, a Udine apre la quarta edizione di Open Dialogues, dove gli scenari internazionali vengono ipotizzati e discussi da esperti da tutto il mondo. Abbattere il regime iraniano è giusto, ma la guerra scatenata da Stati Uniti e Israele punta ad altro e usa le istanze del popolo oppresso per rimodellare il Medio Oriente. Lo pensa la scrittrice Anna Foa oggi a Trieste per presentare il suo libro sul conflitto israelo-palestinese e dice: questa guerra ha fatto dimenticare che i bombardamenti su Gaza continuano. Lavoratori del Teatro Verdi di Trieste in presidio in Piazza dell'Unità. Un memorandum è stato consegnato in prefettura. Contratto fermo da 18 anni e settore in crisi, la denuncia dei sindacati. Una nuova protesta è prevista il 16 marzo a Roma davanti al Ministero della Cultura. Potrebbero partire entro l'anno i lavori per l'ammodernamento degli impianti sciistici sul versante sloveno del Monte Canin, attualmente chiusi. Un blocco che ha impedito nelle due ultime stagioni il collegamento con Sella Nevea. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Dario Ronzoni e Antonio Cagliazza. Dunque, c'è una persona in questura a Pordenone sulla quale si nutrono forti sospetti rispetto al delitto del patron di Tele Pordenone. Sono le parole del procuratore della Repubblica Pietro Montrone che segnano la svolta nell'omicidio di Mario Ruoso, l'imprenditore di 87 anni, trovato senza vita ieri pomeriggio nella sua abitazione di Porcia. Sarebbe uno storico collaboratore della vittima, il sospettato per l'omicidio dell'imprenditore pordenonese Mario Ruoso, 87 anni, trovato senza vita ieri nella sua casa di Porcia con una profonda ferita alla testa. 68 anni, stato sentito in questura. L'uomo è stato individuato questa notte dalla polizia nella sua abitazione nell'Interland pordenonese. È stata anche sequestrata un'auto. Gli investigatori ipotizzano ragioni economiche come movente dell'omicidio. Ruoso era imprenditore nel settore delle auto e delle televisioni private, viveva da solo e si recava ancora ogni giorno al lavoro nella sua concessionaria. È stato trovato dal nipote preoccupato perché non rispondeva al telefono, riverso a terra completamente coperto di sangue. L'assassino lo ha colpito ripetutamente sul capo con una spranga. Le telecamere di videosorveglianza di una vicina attività commerciale potrebbero avere ripreso l'assassino mentre usciva dal palazzo tra le 6 e le 8 del mattino. Io abito qui. Ha sentito qualcosa ieri? No, non ho sentito niente. Mi dispiace perché è un bravo persona. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Non posso darmi una spiegazione rispetto a quanto è accaduto. Se si confermassero le voci sul collaboratore sospettato, sarei completamente stupito e incredulo, perché lo zio lo ha aiutato per l'intera sua esistenza. Lo ha detto Alessandro Ruoso, nipote di Mario, il patron di Tele Pordenone, ucciso ieri. Solo un momento di pazzia potrebbe spiegare l'accaduto, ha continuato. Questa persona era considerata di famiglia, lo conosciamo tutti da sempre. Lo zio lo ha secondato e supportato in tutto. La crisi in Medio Oriente e la guerra che sta investendo l'area sta producendo l'aumento del prezzo del petrolio greggio, prezzi che stanno però già aumentando alla pompa, cosa che fa sospettare l'avvio di un'attività speculativa. Al distributore del presidente nazionale della Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, l'aumento più importante dell'insegna c'è stato proprio questa mattina, 10 centesimi sul diesel e 4 centesimi sulla benzina. Nel giro di 66 ore dall'inizio del conflitto e dal blocco dello stretto di Hormuz, stimava ieri la FIGISC, il greggio è aumentato dell'11% e il gasolio del 33%. Incontriamo un impresario edile. Ho ordinato del gasolio, ci dice, e mi è stato risposto che avevano finito le scorte in due giorni e da lunedì. Ad oggi il prezzo è diventato esorbitante. Noi consumiamo dai 500 ai 600 litri di gasolio al giorno. Faccia un po' lei i conti, ci dice. Per Bruno Bearzi, il presidente nazionale della FIGISC, non c'è speculazione in questo caso e semmai dovesse esserci è solo a livello di contrattazioni internazionali, nemmeno a livello di aziende petrolifere locali. Prima del taglio delle accise, con la guerra in Ucraina, i prezzi avevano superato i 2,20 euro al litro. Speriamo non accada, conclude Bearzi, ma è possibile che i prezzi possano salire ancora. Anche sul mercato dell'energia la reazione dei mercati è stata immediata, segnala Consumatori Attivi, che chiede alle istituzioni monitoraggi effettivi e misure di trasparenza. Sono giorni in cui si toccano con mano anche le differenze normative tra Italia e Slovenia, dove il prezzo viene aggiornato settimanalmente. Massimo Masotti, un imprenditore dell'autotrasporto, ci dice che il fatto che la Slovenia abbia il prezzo bloccato ancora qualche giorno di fatto rende più competitivo approvvigionarsi all'estero con conseguente danno erariale. Gli aumenti, ci dicono, sono già insostenibili e le aziende dell'autotrasporto, con clausole di adeguamento nel contratto, dovranno ribaltare sul cliente il maggior costo. L'incremento dei prezzi potrebbe portare fuori mercato le merci più povere, dove l'incidenza del trasporto è maggiore. Tra i pendolari, chi usa la macchina per andare al lavoro spenderà di più, aggiunge Masotti, magari rinunciando a un weekend al mare. Un impatto del genere, conclude, potrebbe portare anche a una forma di recessione che per una regione come la nostra, in cui l'import e l'export giocano un ruolo importantissimo, non è da sottovalutare. Tolmezzo, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. I rincari non sono segnalati solo ai distributori di carburante. Notizie di prezzi già ritoccati all'insù arrivano ad esempio dai negozi di generi alimentari. Forse l'aumento che si nota più facilmente è quello della pallina di gelato. In alcune gelaterie di Trieste è arrivato a 2,30 euro a pallina, ma gli esercenti spiegano subito: la guerra e la crisi in Medio Oriente non c'entrano, il prezzo era fermo da 2 anni e ci siamo adeguati al rincaro dei prezzi che abbiamo subito nel tempo. Il resto dei beni di consumo, pensiamo alla spesa alimentare, da quando rischiano di aumentare, soprattutto quando possiamo parlare di speculazione? Oggi c'è questo rischio, ne parliamo con Antonio Paoletti, presidente di Confcommercio Trieste. Se vediamo che il pane, la spesa in generale già è aumentata, è possibile? Sì, è possibile, perché ci sono due verità, no? Una è la verità che stanno aumentando i prezzi dei carburanti, dell'energia, di conseguenza i trasporti aumentano, e se aumenta il trasporto ogni consegna di un prodotto in un porto finale ha un aumento, di conseguenza chi subisce l'aumento lo rimette in circolo e come sempre paga il consumatore finale o l'impresa finale. Però diciamo ci sono due momenti, no? Noi oggi abbiamo risorse già in magazzino a prezzi vecchi che non dovrebbe aumentare già ieri o anche domani, almeno un po' di respiro potremmo averlo. E invece poi ci sono i soliti furbetti che magari approfittano dell'occasione e sparano subito delle piccole percentuali, sui grandi volumi fanno grandi numeri. Quindi lei come Confcommercio che appello fa agli esercenti? Agli esercenti faccio l'appello di mantenere i prezzi più calmierati possibile, chiaramente per quanto di loro competenza, perché poi quando arriverà la bolletta di aprile, e a chi avrà avuto contratti a costo variabile, cioè spesa variabile, ci sarà un aumento. Chi invece ha bloccato la tariffa fissa, non avrà l'aumento. Trieste, Navi Italiani, TGR Friuli Venezia Giulia. In questa drammatica situazione internazionale il Comitato Pace e Convivenza Danilo Dolci tiene un ritrovo a Trieste in Piazza dell'Unità fra la Fontana e il Palazzo del Municipio alle 17:30. In un momento segnato quindi da forti tensioni sul piano geopolitico, a Udine si è aperta la nuova edizione di Open Dialogues for the Future, 2 giorni per mettere a fuoco avvenimenti e conseguenze dalla difesa europea alla situazione medio orientale, concentrandosi su Stati Uniti, Cina e intelligenza artificiale. La manifestazione è stata promossa dalla Camera di Commercio di Pordenone e Udine. Fra i temi, alle 14:30 si parlerà appunto di difesa europea. Open Dialogues non cede alla moda del panico, così parla il direttore scientifico della manifestazione udinese, l'editorialista del Corriere della Sera, Federico Rampini. A suo modo di vedere, non bisogna lasciarsi prendere dalla paura, nonostante tutto quello che accade nel mondo. Negli ultimi 4 anni io ho sentito annunciare 400 volte la terza guerra mondiale. E non è questo il tema. Un anno fa ci riunivamo qui, c'era qualche voce che preannunciava una recessione mondiale per i dazi americani. Invece il 2025 si è chiuso come un anno buono per l'economia italiana e per l'export italiano negli Stati Uniti. In ogni caso un effetto sull'economia rischia di esserci se la guerra in Medio Oriente andrà avanti ancora. Veronica De Romanis, professoressa di economia europea. Non sappiamo le conseguenze, quanto durerà, quanto sarà l'impatto, ma sicuramente dobbiamo andare avanti per rendere le nostre economie più resilienti. È l'ennesima volta che ci facciamo trovare di fronte a una crisi con un'economia, in particolare quella italiana, che non ha risolto i suoi problemi strutturali. Un rischio reale è una ripetizione del 2022 con un'inflazione da offerta dovuta all'aumento del costo dell'energia. Uno scenario che avrebbe determinate conseguenze. Luigi Buttiglione, amministratore delegato della società di consulenza LB Macro. Sarà molto difficile evitare un rialzo dei tassi di interesse, quindi con conseguenze sull'economia. È il classico caso di uno shock d'offerta e per il momento sembra proprio che ci stiamo entrando. Le imprese del Friuli Venezia Giulia stanno alla finestra e osservano con preoccupazione. Il presidente della Camera di Commercio Pordenone Udine, Giovanni da Pozzo. È una catena con una cinghia di trasmissione complessa che impatta chiaramente su tutta l'economia globale e quindi soprattutto su quelli che sono i paesi a forte vocazione di export come il nostro paese e anche la nostra regione. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Per i dialoghi europei è in programma oggi a Trieste alle 17.30 alla Scuola per Interpreti in via Filzi la presentazione del libro Il suicidio di Israele con l'autrice Anna Foa, che dialogherà col professor Fabio Spitaleri, docente di diritto dell'Unione Europea all'Università di Trieste. Un'analisi storica sulle vicende tormentate della questione israeliana e palestinese. L'abbiamo intervistata anche per capire il suo punto di vista sull'attacco in Iran di questi giorni. Credo che il regime iraniano sia un regime da distruggere, da far cadere e speravo che cadesse, spero tuttora che cada per una rivoluzione dal basso, una rivoluzione che è stata in qualche modo tentata e che è finita nello spargimento di sangue inenarrabile. Resta il fatto che non sono assolutamente convinta che l'obiettivo primario di Trump né quello di Netanyahu sia quello di portare a un cambiamento di regime, questa è una sorta di giustificazione ex post. E mi duole che una battaglia che possiamo anche immaginare fatta in nome della democrazia e della libertà in Iran venga fatta in base alle iniziative di stati che molto poco hanno di libero e di democratico, com'è l'America di Trump in questo momento con quelle vicende dell'AIS e tutto quello che sappiamo, e com'è Israele oggi. Trump ha molto spesso oscillato fra la posizione di una battaglia per cambiare regime, una battaglia esclusivamente per arrivare alla limitazione delle armi nucleari e a un rimodellamento del Medio Oriente. Netanyahu ha un estremo bisogno di guerre, di continuare le guerre, questo lo sappiamo. Inoltre mi sembra che tutto questo abbia messo molto in secondo piano il problema che è ancora molto grave, che è quello di quello che sta succedendo in Medio Oriente, dove ci sono tuttora dei bombardamenti su Gaza e dove in ogni caso la situazione nella Cisgiordania è terribile. Secondo lei questa guerra potrà peggiorare ancora di più la loro situazione? Beh, certamente non le migliora. Nel senso che contribuisce a offuscarne le ragioni e comunque non vedo come un rimodellamento completo della situazione medio orientale ne possano in qualche modo beneficiare in questo momento i palestinesi. L'instabilità internazionale e l'incertezza economica hanno portato alle stelle il prezzo dell'oro, considerato bene rifugio per eccellenza, e questo ha a sua volta fatto aumentare le vendite ai compro-oro. Il valore dell'oro è alle stelle, un vero record. Quello puro a 24 carati si scambia a 147 euro al grammo, 4 volte il prezzo di 7 anni fa. Quando poi ci si presenta dai compro-oro per monetizzare, il prezzo scende intorno ai 90 euro. I compro-oro sono quindi presi d'assalto? Lo abbiamo chiesto a un'imprenditrice che, partita da zero, in 25 anni ha aperto 6 negozi, che oggi danno lavoro a 10 persone. Quando sono partita io pensi che valeva 14 euro, adesso siamo decisamente a molto molto più alta. Possiamo dire che in 25 anni questo è il record per voi? Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Infatti molti concorrenti, ho visto, hanno tolto i prezzi, si sono bloccati, non pagano di più, perché temono il crollo, perché succede sempre, no? Sale molto, poi tutto su un momento crolla. Con questo valore dell'oro così in aumento, com'è cambiata la vostra clientela? Rispetto a una volta c'è meno gente che ha solo bisogno. Vengono proprio per liberarsi di oggetti che magari non usano, che sono fermi, sia per la sicurezza in casa, sia per monetizzare. Il boom delle vendite ai comproro ha indotto alcune associazioni di consumatori a stilare una sorta di decalogo per chi vuole vendere. Raimondo Gabriele Englaro, presidente del Movimento Difesa del Cittadino FVG. Sappiamo che il prezzo dell'oro sui mercati si riferisce al metallo puro a 24 carati, mentre nella maggior parte dei gioielli e monili commercializzati ai consumatori è di 18 carati. E al momento della valutazione dell'oggetto, l'esercente deve pesare l'oggetto prezioso davanti al cliente con una bilancia di precisione e presentare la propria offerta riferita al peso in grammi. Questa terrà conto anche della commissione che viene applicata dal negoziante, in media è compreso tra il 15 e il 25%. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed ora la situazione meteorologica, cielo da sereno a poco nuvoloso sulla regione, ecco le temperature alle 11, a Trieste 9 gradi, a Pordenone 10, a Gorizia 12, a Udine 12 gradi e 5, Sappada 6 gradi, Tarvisio 8 e 5, Forni di Sopra 10, Tolmezzo 10 e 5, Monte Zoncolan 3 gradi e 5, Monte Lussari 5 e mezzo, a Grado 9 e 5, a Lignano 11 e 5. Le previsioni per oggi vedono cielo sereno, nella notte saranno possibili foschie o nebbie su pianura e costa che potranno localmente persistere anche domani in mattinata. Le inversioni termiche e quota dello zero termico in aumento a 2300 metri. Presidio dei dipendenti della Fondazione Lirica Teatro Verdi di Trieste stamattina in Piazza dell'Unità, supportati dalle organizzazioni sindacali di categoria, hanno consegnato un memorandum in prefettura sulla grave situazione in cui versa il settore dello spettacolo dal vivo in Italia. Un contratto collettivo nazionale che non si rinnova da ben 18 anni, manca un contratto sulla riforma del codice dello spettacolo, il turnover introdotto dalla finanziaria 2025 limita la capacità operativa, denunciano i sindacati. Alessandro Sarti, SLC CGIL. Si sta facendo un cambiamento nel mondo dello spettacolo senza il coinvolgimento delle parti sociali. E in questo, devo dire, c'è una situazione di precarizzazione da tempo indeterminato a tempo determinato in caso di carenza di fondi. Il presidio di Trieste è stata una delle iniziative di protesta che ha coinvolto più fondazioni lirico-sinfoniche del paese. Durante le manifestazioni, i rappresentanti dei lavoratori hanno consegnato un memorandum al prefetto Petronzi, nel quale chiedono soluzioni immediate. Tra queste ci sarebbe un adeguamento del Fondo Unico per lo Spettacolo, principale strumento di finanziamento statale. Gunther Suban, Wilcom. FUS è un problema che nasce nell'85, perché nell'85 è stato istituito, ma non è mai stato adeguato all'inflazione, quindi immaginiamo una partita che rimane ferma per 40 anni. La trattativa del rinnovo è iniziata, è andata avanti per qualche mese, però poi al momento della verità ci sono i soldi, non ci sono i soldi, questi soldi mancano. I dipendenti del Verdi chiedono rilancio e valorizzazione del settore, dichiarando non negoziabile la dignità del lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche. Il 16 a Roma, davanti al Ministero della Cultura, è in programma un nuovo presidio. Trieste, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. In vista della giornata internazionale della donna, lo SPI-CGL organizza a Trieste il dibattito sindacaliste sui percorsi femminili nelle organizzazioni sindacali dalle origini ad oggi. Interverranno Gianna Belle e Adriana Merola della CGIL, Adele Pino della UIL, Michela Glavish, segretaria della nuova Camera del Lavoro di Trieste, Chiara Lucchetto, segretaria FIOM di Trieste e Daniela Bais, segretaria dello SPI triestino. Alle 16 nella sala Filoxenia. La prima edizione del premio di laurea Confagricoltura Donna Friuli Venezia Giulia è stata vinta da Alessia De Giorgi di Reana del Royale, laureata magistrale con 110 lode in allevamento e benessere animale all'Università di Udine. Il riconoscimento del valore di 1000 euro premia tesi sperimentali dedicate all'innovazione e alla sostenibilità in agricoltura e nel settore forestale. Alla selezione hanno partecipato 25 tesi valutate da una commissione composta da rappresentanti di Confagricoltura Donna Friuli Venezia Giulia e dall'Ateneo Friulano. Due menzioni speciali sono state assegnate a Elisa Scubla di Cividale del Friuli e Sofia Tuzzi di Gemona del Friuli per l'elevato carattere innovativo e interdisciplinare dei loro lavori. La tesi vincitrice studia l'impiego delle larve della camola della farina per detossificare derrate contaminate da aflatossine e trasformarne i residui in ammendanti. L'iniziativa punta a sostenere il ruolo delle donne nella ricerca scientifica e nell'innovazione agricola. Ritorna il premio letterario dedicato al cantore del Carso, Zrečko Kozuvel. La presentazione ieri a Monfalcone, il servizio è di Nico Stokely. Torna il premio letterario Kozuvel per traduzioni della lingua slovena all'italiano nelle categorie prosa, poesia ed infanzia. È un'iniziativa del Consorzio Culturale del Monfalconese nel centenario della morte di Zrečko Kozuvel, poeta sloveno, cantore del Carso. La quarta edizione, quella del rilancio, arriva a quasi 20 anni dalla precedente, dopo che la prima in assoluto, nel lontano 1994, vide premiato e poi pubblicato un romanzo bestseller come Necropoli di Boris Pahor. Il Consorzio Culturale del Monfalconese, per suo statuto, ha la conservazione della memoria della nostra comunità, la nostra identità, delle nostre comunità. Noi facciamo questo ormai da quasi 50 anni e la nostra comunità è caratterizzata da una forte comunità slovena, quindi è compito istituzionale del consorzio anche tutelare e conservare questa identità culturale. Contestualmente all'evento di Ronchi, la responsabile dello sportello sloveno presso il consorzio, la traduttrice Tania Tuta, ha presentato le attività, mostre, pubblicazioni, progetti transfrontalieri, figlie dell'accesso in pianta stabile nella rete regionale per la lingua slovena. Il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico dedica la prima settimana di marzo alla Project Week, iniziativa che coinvolge 184 studenti provenienti da 78 paesi in attività di apprendimento sul campo. Per una settimana gli studenti lasciano le aule per realizzare progetti di volontariato, sport e creatività pensati insieme agli educatori e sviluppati con partner locali. Quest'anno sono 22 le iniziative attivate, distribuite in diverse città italiane, tra cui Bologna, Milano, Padova, Palermo, Roma e Torino, e in vari paesi europei. Le attività spaziano dal sociale all'educazione ambientale, dal dialogo interculturale alla divulgazione scientifica. In Friuli Venezia Giulia gli studenti sono impegnati tra Trieste, Monfalcone, Carnia, Aduino con Caritas, associazioni sociali e attività formative come fotografia astronomica e primo soccorso. A Palermo il rettore Khalid El Metal accompagna una delegazione per presentare il modello educativo degli United World Colleges e le opportunità di studio con borse di studio. Una notizia di biathlon: a 17 giorni dalla conquista della medaglia d'oro nell'inseguimento ai recenti giochi olimpici di Milano Cortina, Lisa Vittozzi ritorna in pista nella terz'ultima tappa di Coppa del Mondo che prenderà il via oggi a Kontiolahti in Finlandia. La sappadina sarà impegnata nell'individuale che comincia alle 17.05. Primo passo per l'avvio dei lavori di ristrutturazione degli impianti sciistici sul versante sloveno del Monte Canini, un'area che fino a 2 anni fa era collegata al comprensorio di Sella Nevea, dando vita al primo polo sciistico trasfrontaliero delle Alpi. Ci vorranno almeno 2 anni di lavori per un costo finale attorno ai 100 milioni di euro. Inizia a muoversi qualcosa per la riapertura degli impianti sciistici sul versante sloveno del Monte Canin, chiusi da 2 anni per la mancanza dei necessari requisiti di sicurezza. Una vicenda che riguarda direttamente anche il comprensorio di Sella Nevea, che poteva contare fino alla stagione 2023-2024 di un collegamento transfrontaliero in quota tra le piste italiane e quelle slovene, usufruibili con un unico ski pass. Ieri sera infatti è stato presentato a Bovec uno studio di fattibilità redatto dal comune della località slovena che prevede la realizzazione di una nuova ovovia in 2 tronconi sullo stesso tracciato di quella dismessa. L'impianto potrà contare cabine da 10 posti e garantirà una portata oraria di 1.400 persone nella prima tratta e di 2.400 nella seconda. Il progetto prevede anche la sostituzione di uno dei tre impianti in quota con una nuova seggiovia quadriposto, la copertura di tutti i tracciati con un sistema di innevamento programmato ed una nuova centralina elettrica alimentata dalle acque dell'Isonzo. Costo stimato dell'operazione 100 milioni di euro. Risorse finanziarie che verranno reperite in parte da imprenditori privati e in parte da un finanziamento del Ministero sloveno delle infrastrutture, dopo che ad agosto verrà emesso un bando europeo apposito da parte del comune di Bovec. Per ora si sono fatte avanti tre cordate interessate all'investimento, due slovene ed una italiana. Una soluzione che comunque richiederà tempi lunghi e che era stata caldeggiata più volte dal presidente della regione Massimiliano Fedriga in uno dei colloqui avuti con la ministra degli esteri slovena Tanja Fajon. Ora non resta che aspettare, ma con qualche certezza in più. Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il Consiglio Comunale di Aurisina ha omaggiato ieri la sciatrice Caterina Sinigoj, che ha partecipato alle Olimpiadi di Milano Cortina gareggiando per la nazionale slovena nello slalom gigante e nello slalom speciale, piazzandosi al 31esimo e al 30esimo posto. La sciatrice in questa stagione ha fatto il suo esordio anche in Coppa del Mondo. Il traguardo di Caterina Sinigoj, è stato detto, è un risultato che appartiene a tutta la comunità. L'abbiamo intervistata. Due anni fa non pensavi di arrivare alle Olimpiadi, era un target molto remoto e invece è successo. Sì, è successo, ma non solo due anni fa, anche all'inizio di questa stagione non me l'aspettavo di poter partecipare alle Olimpiadi. Invece è successo, ho partecipato, ho ottenuto anche dei buoni risultati, quindi sono molto contenta. Hai gareggiato per la Slovenia, sei cittadina italiana e anche slovena, come mai questa scelta? Dopo tanti anni gareggiando in Italia e per l'Italia ho deciso di cambiare nazione solamente per avere più possibilità in Coppa Europa specialmente e per essere più seguita, perché la nazione è più piccola e quindi mi sento più accolta e grazie a loro, grazie alla federazione, poi sono riuscita anche ad ottenere buoni risultati. E comunque l'appuntamento tra 4 anni? Eh sì, diciamo che il mio obiettivo erano le Olimpiadi del 2030, quindi diciamo adesso ci vorranno 4 anni per prepararmi, però penso prima agli obiettivi, diciamo, che succederanno ancora a fine questa stagione e la prossima, ma comunque mi allenerò per portare la mia nazione il più alto possibile tra 4 anni. Nada Choc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un appuntamento per oggi, le donne e la grande guerra, la conferenza in programma a Trieste questo pomeriggio con il professor Riccardo Balzarotti Kemlein. All'iniziativa parteciperà anche il coro Nino Baldi dell'Associazione Alpini di Trieste al Museo d'Enriquez, inizio alle 16.30. Sono le 12.57 minuti, grazie a Paolo Cassano e a Mauro Cumin per l'assistenza tecnica, a Samantha Gon per la collaborazione in redazione e a tutti voi per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Da Dario Ronzoni e da Antonio Cagliazza, buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.